Viaggiare, signori, è proprio utile, è molto utile. Fa innanzitutto lavorare l'immaginazione, no? E tutto il resto è solo delusione, è un'immensa fatica. Questo viaggio che ci è dato è un viaggio interamente immaginario, ma questa è la sua forza e va dalla vita alla morte e uomini, bestie, città e cose è tutto inventato. È un romanzo, nient'altro che una storia fittizia. Lo dice anche lì tre, poi lui non si sbaglia mai, no? E poi, signori, in ogni caso, tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi e dall'altra parte della vita. Così. Io non avevo detto assolutamente niente, ma niente proprio. È Arthur che mi ha fatto parlare. Ci troviamo a Place Clichy. Era dopo pranzo. E ci accorgiamo che non c'era nessuno per le strade. A causa del caldo, no? Niente, niente vetture, nulla. E quando fa molto freddo è lo stesso. Non c'è nessuno per le strade. Voglio dire, quelli di Parigi hanno sempre l'aria molto occupata, no? Ma di fatto vanno a passeggio da mattina a sera. Prova ne è che quando non va bene per passeggiare perché fa troppo freddo o troppo caldo non li vedi più, no? Sono tutti dentro a prendersi il caffè con la crema e i loro boccali di birra. Il secolo della velocità, no? Ti dicono loro. Il secolo della velocità. Ma dove mai, no? Questi grandi cambiamenti, no? Come te li raccontano loro? Che roba è? Voglio dire, non è cambiato niente in verità. Continuano a stupirsi. E basta. Ma neanche questo è nuovo. Per niente. E anche le parole sono cambiate, voglio dire. Due o tre di qui, di quelle piccole. Comunque, tutti fieri d'aver fatto risuonare queste utili verità, siamo rimasti là seduti, incantati, no, a guardare le dame del caffè. Certo che signor giornale che è il Temps, eh? Ecco che mi provoca Arthur. Ce n'è mica un altro come quello, come difende la razza francese, no? Sì, ce n'è proprio bisogno la razza francese, visto che non esiste. Gli ho risposto io, anche per fargli vedere che ero documentato, no? Colpo su colpo. Ma sì che ce n'è una! È anche bella come razza! Insisteva lui. Ed è persino la più bella razza del mondo, ecco! E cornutaccio chi dice il contrario! E poi eccolo che parte a gridarmi addosso. E io ho tenuto duro, ben inteso. La razza, quella che chiami così, è solo questa grande accozzaglia di poveracci del mio stampo. Così cisposi, pulciosi, cagoni, che sono cascati qui inseguiti da fame, peste, tumori e freddo. Arrivati già vinti dai quattro angoli della terra, solo perché non potevano andare più in là, perché dopo c'era il mare. Ecco, questo è la Francia, questo sono i francesi. Siamo nati fedeli, e fedeli crepiamo, noi altri. Soldati a gratis, eroi per tutti, e scimmie. Scimmie parlanti con le nostre parole sofferte. Siamo noi i cocchi di Re Miseria. È lui che ci possiede. Quando non fa il bravo, lui stringe. Ci abbiamo le sue dita qua intorno al collo che sempre ci dà noia a parlare. Bisogna fare molta attenzione se ci tieni a mangiare, che per niente lui ti strozza, no? Non è vita. Beh, ma c'è l'amore, Bardamò. L'amore. Arthur, l'amore è solo l'infinito abbassato al livello dei barboncini. E c'ho la mia dignità io. Un Dio! Un Dio! Che conta i minuti e i soldi! Che conta! Un Dio disperato, sensuale e brontolone come un porco. Disperato. Un porco. Sensuale. Un porco con le ali dorate. E brontolone. Che casca dappertutto. Pancia all'aria. Un porco. Pronto alle carezze. Un porco. Come. E lui. Un porco. Come un porco. Un padrone. Porco. Padrone. Un porco con le ali dorate, che casca dappertutto, dappertutto, casca dappertutto, pancia all'aria, pancia all'aria! Pronto? Pancia! Alle carezze! All'aria! È lui! Pronto! Alle carezze! Il nostro padrone! È lui! Padrone! Nostro padrone! Baciamoci! Baciamoci! Baciamoci! Baciamoci! Baciamoci! Non sta in piedi di fronte alla vita. Io sono per l'ordine costituito e non mi piace la politica, ma il giorno che la patria mi chiederà di versare il sangue per lei, me mi troverà di sicuro pronto a darlo. Siamo tutti quanti seduti su una grande galera e remiamo tutti, remiamo fino a schiattare, seduti su queste trappole a sfangarcela tutta, no, noi altri? Ma cos'è che ne abbiamo in cambio? Niente, solo randellate, miserie, frottole e altre carognate del genere. Si lavora! Si lavora, dicono loro, no? È questo che è ancora più fetido di tutto il resto. Il loro lavoro. Noi stiamo giù nelle stive a sputare l'anima, puzzolenti, con le palle che ci sudano. Ed eccoli là in alto, sul ponte, al fresco, i padroni, con belle femmine rosa, tutte gonfie di profumo, sulle ginocchia. Ci fanno anche salire delle volte sul ponte. Si mettono il cappello dell'alta uniforme e poi te ne sparano in faccia una del tipo: banda di carogne, è la guerra! La guerra? Dai, che adesso li abbordiamo, sti porcaccioni che stanno sulla patria numero 2! E gli facciamo saltare la pignatta! A lei! C'è tutto quello che ci vuole a bordo, coraggio, tutti in coro! Spariamone una forte tanto per cominciare da far tremare i vetri! Viva la patria numero 1! Viva la patria numero 1! Avanti, che vi sentano da lontano! Chi griderà più forte avrà la medaglia e il confetto del buon Gesù! E poi quelli che non vogliono crepare in mare potranno sempre crepare in terra, dove si fa ancora più in fretta di qui. Beh, quando ci sei, ci sei. Niente. Ci fecero montare a cavallo. E poi, in capo a 2 mesi che eravamo là sopra, rimessi a piedi. Forse perché costava troppo caro, non lo so. Alla fine, comunque, un mattino c'era il colonnello che cercava la sua cavalcatura. Ma improvvisamente il suo attendente pare che ci fosse partito insieme, non si sapeva dove. In un posticino senza dubbio dove le pallottole passavano meno facilmente che in mezzo alla strada, perché è esattamente lì che avevamo deciso di metterci, il colonnello ed io, proprio nel bel mezzo della strada. E io che tenevo il registro dove lui inscriveva gli ordini. E molto lontano, sulla carreggiata, lontano fin dove si poteva vedere, c'erano 2 piccoli punti neri in mezzo alla strada, come noi. Ma erano 2 tedeschi occupatissimi a sparare da un buon quarto d'ora. Ora, lui, il nostro colonnello, lo sapeva forse perché quei 2 sparavano, e i tedeschi sicuramente anche loro lo sapevano. Ma io veramente non lo sapevo. Per quanto lontano cercassi nella memoria, io ai tedeschi non gli avevo mai fatto niente. Ero sempre stato molto gentile e educato con loro. Ma comunque, sopra le nostre teste, a 2 millimetri, a 1 millimetro forse dalle tempie, continuavano a vibrare l'uno dietro l'altro quei lunghi fili d'acciaio che tracciano i proiettili che cercano di ucciderti. Nell'aria calda d'estate. Ecco. Sapete, mai mi ero sentito così inutile, come in mezzo a tutte quelle pallottole e alle luci di quel sole. Davvero un'immensa, universale presa in giro. Non avevo che 20 anni a quel momento. Poi queste cascine deserte in lontananza, queste chiese vuote e aperte, come se i contadini fossero partiti da quelle borgate per la giornata, tutti, per una festa, metti all'altro lato del cantone, e ci avessero lasciato fiduciosi tutto quello che possedevano. La loro campagna, le carrette stanche all'aria, i loro campi, i loro recinti, la strada, gli alberi, le vacche, un cane alla catena, tutto, tutto. Perché ci trovassimo proprio tranquilli a fare quello che volevamo durante la loro assenza. Una cosa anche gentile da parte loro, no? Cioè, un po' come gli innamorati, no? Che fanno le maglie alate appena tutti se ne sono andati. Comunque, se non fossero altrove, mi dicevo io, se ci fosse stato ancora qualcuno da queste parti, non ci si sarebbe di certo comportati in quel modo ignobile, così male. Penso che non avremmo osato davanti a loro. Comunque, questi tedeschi accovacciati sulla strada, testoni e sparacchianti, tiravano male, perché tiravano male, ma sembravano avere munizioni da vendere, magazzini pieni. E il nostro colonnello, bisogna pur dire quello che è, manifestava un fegato stupefacente. Passeggiava nel bel mezzo della carreggiata, tra le traiettorie, con la stessa semplicità con cui avrebbe atteso un amico sulla banchina della stazione. Soltanto un po' impaziente. Io, anzitutto, poi la campagna, bisogna che lo dica subito, non l'ho mai potuta capire, l'ho sempre trovata triste già di mio, con i suoi letamai che non finiscono più, le case dove la gente non c'è mai, i sentieri che non vanno da nessuna parte, no? Ma quando uno ci aggiunge la guerra, c'è veramente da diventare pazzi. Nel frattempo s'era levato questo vento brutale da ogni lato delle scarpate. I pioppi che fondevano le loro raffiche di foglie ai piccoli rumori secchi che da laggiù venivano verso di noi. Sti soldati sconosciuti ci mancavano di continuo, ma continuavano a metterci attorno mille morti. Ci si ritrovava come rivestiti. Io non osavo più muovermi. E il colonnello era ovviamente un mostro, no? Adesso ne ero convinto. Era peggio di un cane. Non si immaginava la sua dipartita. Non se la immaginava. E capii, al tempo stesso, che dovevano essercene molti come lui nel nostro esercito. Dei prodi. E poi di sicuro altrettanti nell'esercito di fronte. Chi poteva sapere quanti? Uno, due, ma forse molti milioni, forse, no? Bene, da quel momento la mia caghetta divenne panico. Pensavo, con esseri del genere, questa imbecillità infernale poteva continuare all'infinito. Perché avrebbero dovuto fermarsi? Mai avevo sentito tanto implacabile la sentenza degli uomini e delle cose. Sarei dunque io il solo vigliacco? Pensavo. E con che spavento, no? Perduto in mezzo a 2 milioni di pazzi eroici e scatenati e armati fino ai denti. Con gli elmetti, senza cavalli, su moto, urlanti, in auto, fischianti, sparacchianti, cospiranti, volanti, in ginocchio, scavanti, defilanti, caracollanti sui sentieri, spedazzanti, schiacciati, pancia a terra, caracollanti come in una cella di isolamento per distruggere tutto. Germania, Francia, continenti, tutto quello che respira, distruggere più arrabbiati dei cani, in adorazione della loro rabbia, quello che i cani non fanno. 100, 1000, 1000 volte più arrabbiati di 1000 cani e tanto più viziosi. Eravamo belli. Adesso c'ero arrivato. M'ero imbarcato in una crociata apocalittica. Thank you. ci sono tantissimi modi di essere condannati a morte. Che cosa non avrei dato in quel momento per essere in prigione invece di essere là? Per avere, per esempio, quando era così facile, con un po' di previdenza, rubato qualcosa da qualche parte, quando c'era ancora tempo. Come un cretino, no? Non si pensa a niente, non si pensa mai a niente. Alla fine dalla prigione ci esci vivo, almeno. Dalla guerra no. E tutto il resto sono parole. Se solo avessi avuto ancora tempo. Ma non ne avevo più. Non c'era più niente da rubare. Come sarebbe stato bello, pensavo, in una piccola prigione tranquilla, dove le palle non passano, non passano mai. Ne conoscevo anche una, bella, pronta, al sole, al caldo, come in un sogno. Quella di Saint Germain, per l'esattezza. Così vicina alla foresta, la conoscevo bene perché passavo spesso di là un tempo. Come si cambia, eh? Ero un bambino. E mi faceva paura la prigione. Pensate, è che non conoscevo ancora gli uomini. Non crederò mai più a quello che dicono e che pensano. È degli uomini e di loro soltanto che bisogna avere paura. Sempre. Stessi. Loro pagano. I ricchi, loro pagano. Si fa di tutto per pagano. E noi si fa di tutto per piacergli. E tutti sono contenti. Mentre le loro donne sono mentre belle, le loro donne sono belle, quelle dei poveri sono brutte. È un risultato. Ed è semplicemente un risultato che avviene da secoli. Vestiti, no? A parte. Vestiti a parte. Belle carine, belle carine, ben nutrite, ben lavate. Da quando c'è la vita non è arrivata che a questo. Quanto al resto poi si ha un bel darsi da fare, no? Si scivola, si sbanda, si ricasca nell'alcol, che conserva i vivi e i morti, ma non si arriva mai a niente. È assolutamente provato. È da tanti di quei secoli che possiamo guardare i nostri animali che nascono, faticano e muoiono davanti a noi, senza che a loro gli sia mai capitato nient'altro di speciale che non fosse ricominciare lo stesso insulso fallimento là dove tanti altri animali l'avevano lasciato. Che avremmo dunque dovuto capire quello che capitava? Ondate incessanti di esseri inutili che vengono dal fondo dei tempi a morire in continuazione davanti a noi. E tuttavia noi restiamo lì a sperare qualcosa, nemmeno capaci di pensare la morte che siamo. E si capisce, ciascuno per sé, la terra per tutti. Poi cercano di sbarazzarsene della loro pena sugli altri, quando è il momento dell'amore. Ma allora la cosa non funziona. E si ha un bel da fare se la tengono tutta intera la loro pena, è inutile. E ricominciano. Provano a piazzarla un'altra volta, no? Com'è bella, signorina. Dicono loro, no? E la vita magicamente li riprende. Fino alla prossima volta in cui riproveranno ancora lo stesso giochetto, no? Lei è proprio bella, signorina. E poi nel frattempo stanno a vantarsi d'essere riusciti a disfarsene della loro pena. Ma tutti sanno che non è vero niente. se la sono tenuta tutta bella in caldo, tutta per loro. Dal momento che si diventa sempre più brutti e ripugnanti quando si invecchia, non si riesce nemmeno più a dissimularla, la propria pena, il fallimento. Si finisce per avere la faccia tutta piena di quella brutta smorfia che impiega 20, 30 anni e più a risalire finalmente dal ventre alla faccia. È a questo che serve, a questo soltanto che serve un uomo, una smorfia, che lui ci mette una vita a confezionarsi e ancora non gli riesce sempre di portarla a termine. Tanto è pesante e complicata la smorfia che bisognerebbe fare per esprimere la propria vera anima senza nulla perdere. Poi, certo, i giovani hanno sempre tanta fretta d'andare a fare l'amore e non stanno a guardare tanto per il sottile in fatto di sensazioni. Sono un po' come quei viaggiatori che s'abboffano di tutto quello che trovano al buffet, purché ai giovani gli forniscano anche quelle due o tre strofette che servono a tirar sulla conversazione per scopare. E questo basta, no? Ed eccoli tutti felici, perché sono contenti facile, i giovani. Godono come vogliono, tanto per cominciare. E alla fine tutta questa giovinezza va a sfociare su una spiaggia bellissima, in riva all'acqua, dove tutte quante le donne hanno l'aria di essere finalmente libere, dove sono così belle da non avere nemmeno più bisogno della menzogna dei nostri sogni. Allora certo, una volta che viene l'inverno è dura rientrare, dirsi che è finita, ammetterselo. Si resterebbe lo stesso lì, anche nel freddo, nell'età. Si spera ancora. E si può capire, no? Siamo esseri ignobili, non bisogna dare assolutamente la colpa a nessuno. Godere ed essere felici anzitutto. Questo è quello che penso. E poi quando cominciamo a nasconderci agli altri, è solo segno che abbiamo paura di divertirci con loro. È una malattia a sé. Bisognerebbe sapere perché ci ostiniamo a non voler guarire dalla solitudine. Un altro tipo che avevo incontrato durante la guerra, per esempio, all'ospedale, un caporale, me ne aveva proprio parlato un po' di quei sentimenti, no? Peccato che non l'ho mai più rivisto, sto ragazzo. La terra è morta, mi aveva spiegato lui. Non siamo altro che dei vermi in piedi. Noi altri, dei vermi sul nostro schifo di grosso cadavere, a mangiargli tutto il tempo le trippe e i veleni che fa. Niente da fare con noi altri, siamo tutti marci dalla nascita, ecco tutto. Il rimorchiatore ha fischiato, il suo richiamo ha passato il ponte, ancora un'arcata, un'altra, la chiusa, un altro ponte, lontano, più lontano. Chiamava a sé tutte le chiatte del fiume, tutte, anche la città intera, e il cielo, e la campagna, e noi. Tutto si portava via. Tutto. Anche la Senna. Tutto. E che non se ne parli più.